Deve girare, le celle devono... Io segnalo, cioè, chiamami da un altro. Bene, buon pomeriggio. Siamo in una nuova lezione della Scuola dei diritti dei cittadini. Viso nuovo che vi presenta, mi chiamo Gianluigi Amadei, collaboro col professor Moruzzi da quando non era ancora il professor Moruzzi, facciamo i 30 anni quest'anno di collaborazione, quindi diciamo che nelle avventure che hanno portato il coordinatore della scuola ad occuparsi dei temi che di settimana in settimana affrontiamo, insomma, abbiamo fatto un pezzo di strada insieme piuttosto lungo. Moruzzi si scusa, oggi è alla smara e quindi mi ha chiesto la cortesia e mi ha dato il piacere, tra l'altro, di poter seguire interamente la lezione di oggi, perché purtroppo fino ad oggi dalla scuola ho potuto seguire soltanto qualche bocconcino di lezione ogni tanto. Oggi abbiamo con noi il professor Prandini, Riccardo Prandini, professore ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Alma Mater di Bologna e coordinatore del corso di dottorato in sociologia e ricerca sociale al Dipartimento. Il tema della lezione di primo acchito, poi appunto sono dovuto andare a guardare un po' i lavori del professore, titolo che può spaventare un attimo, diritti fondamentali e autocostituzionalizzazione delle sfere civili, che invece ho visto nei lavori del professore è un tema che ricorre frequentemente, anche perché mi sembra di capire da quello che ho potuto leggere è un tema strettamente collegato ai mutamenti in essere nella nostra società, particolarmente per quanto riguarda il bisogno, quindi l'evoluzione da un welfare istituzionalizzato ad un sistema del benessere, per tradurre letteralmente il termine welfare, che si appoggia non più su meccanismi burocratici, su meccanismi governati, quanto piuttosto su una rete di realtà che viene via via arricchendosi nel tempo e che ha bisogno, diciamo, di autoistituzionalizzarsi, cioè darsi una forma istituzionalizzata senza per questo ricadere in quella che era l'organizzazione precedente, soprattutto perché crescendo il bisogno e calando le risorse, la precedente organizzazione non riesce più a soddisfare quella che è la necessità di welfare, soprattutto per quanto riguarda le fasce di popolazione più deboli. Io non aggiungo altro, lascio immediatamente la parola al professor Prandini. Credo che, come siamo organizzati di solito, dopo la sua relazione avremo tempo per un colloquio che immagino già piuttosto proficuo, quindi diciamo, ci vediamo al termine della sua esposizione per dare poi un po' la parola a ognuno. O penso ma così. Speriamo di sopravvivere tutti, visto anche il caldo che si preannuncia ancora in peggioramento, quindi insomma oggi ci va anche bene. Ma dunque, intanto, buongiorno, per non dimenticarci le buone maniere. Il titolo, comincio dal titolo, perché sì, può sembrare un titolo un po' assurdo, ma in realtà il tema è molto importante, molto attuale e è anche piuttosto facile da capire. Il problema che vorrei affrontare sulla base di lavori fatti con colleghi molto più bravi di me, io non sono un sociologo del diritto, io sono un sociologo della cultura, ma mi occupo anche del diritto semplicemente perché quando uno c'ha un po' di passione ed energia si occupa delle cose che gli piacciono. Allora, il tema che vorrei affrontare è vediamo se riesco a essere molto semplice, è questo: che cosa succede quando I diritti fondamentali, no, delle persone, diritti, l'eguaglianza, la libertà, la giustizia, la libertà di parola, eccetera, eccetera, non vengono più, diciamo, costretti e protetti dentro allo Stato-nazione, dentro agli Stati, al sistema degli Stati. Che cosa succede quando questi diritti fondamentali vengono messi in discussione non più a livello statale, ma a livello globale? Cioè la domanda è semplice, non vivendo più in un mondo fatto di stati che avevano un loro ordine interstatale, bla bla bla, ma vivendo dentro un mondo globale dove non sono più gli stati ad avere, soltanto loro, ad avere il potere, ma sono altre istituzioni ad avere il potere, cosa succede quando i diritti individuali vengono messi appunto in crisi e in discussione non da potenze statali o interne allo Stato, ma esterne e di difficile anche identificazione, cioè dentro al magma, al flusso della globalizzazione. In termini ancora più semplici, ed ecco il termine autocostituzionalizzazione, potremmo dire anche questo. Una costituzione nazionale è una specie di, non è una specie, è un ibrido tra due modalità di, tra due tipi di risorsa sociale. La prima risorsa è il potere, il potere che viene inglobato a partire dal 500 e fino all'apogeo della metà dopo la seconda guerra mondiale dentro lo Stato, che il potere, sapete, l'uso del potere, della forza legittima è soltanto dentro lo Stato, tant'è che se uno esce appunto con la pistola in tasca lo fermano e gli dicono qualcosa, perché gli unici che possono avere la pistola in tasca chiusa sono i poliziotti. Oggi siamo pieni qua di poliziotti, non ho capito cosa c'è qua. Ah, ecco, mi immaginavo il G7. C'è il G7, esatto. Beh, quindi che cosa succede quando, diciamo, il potere dentro lo Stato-Nazione è legittimato soltanto, lascio le battute su Galletti, che sono tutte buone, il potere è inglobato dallo Stato, che è l'unico legittimo possessore, ma questo potere, ed ecco il problema della Costituzione, non può essere usato arbitrariamente dallo Stato, dal potere politico. La Costituzione è quella carta che attraverso il diritto dà forma al potere e lo regola. No, la Costituzione fondamentalmente, oltre alla parte sui principi bla bla bla eccetera, è il regolamento, l'ordinamento dei vari poteri che attraverso il diritto vengono, no, legati, vengono ordinati, vengono indirizzati e vengono tolti dalle possibilità di arbitrio, perché sennò uno potrebbe usare il potere come gli pare, no? Da qui tutta la storia del costituzionalismo occidentale, dei contropoteri, del bilanciamento dei poteri, che è esattamente questo ordinamento giuridico che attraverso il diritto blocca il potere. Quindi qui abbiamo, dentro l'orizzonte ancora statale che noi stiamo abbandonando, noi abbiamo un problema semplice: abbiamo un potere che tendenzialmente potrebbe essere arbitrario e fare quello che vuole, che viene ordinato dal diritto. Allo stesso tempo il diritto viene legittimato dal potere. Sono due sistemi che, in maniera molto strana, perché la storia delle costituzioni che nasce dalle rivoluzioni è nata due volte, tre volte, negli Stati Uniti, in Francia e in Inghilterra, non è che sia stata poi una roba così che veniva su come i funghi, e dopo ci ha messo un paio di secoli. Adesso quasi tutti gli stati sono stati con una costituzione, non tutti, ma alcuni per esempio hanno soltanto la parte, diciamo, superficiale, simbolica della costituzione per poter dialogare con gli altri stati. Cioè, non diamo per scontato il processo di costituzionalizzazione, ma dentro quel processo di costituzionalizzazione, cominciamo a entrare nel nostro tema, quel processo di costituzionalizzazione lì, ripeto, il diritto che dà forma al potere, il diritto che in un certo senso limita il potere, che può essere sempre potere arbitrario, Potere arbitrario. Genova 15 anni fa, a un certo punto c'è una manifestazione, chi ha il potere, i poliziotti eccetera eccetera, lo uso in maniera arbitraria, comincia a dare delle botte a tutti. In uno stato non costituzionale e non uno stato di diritto cosa sarebbe successo? Niente. Cosa succede oggi in un paese che non ha questi controlli giuridici? Niente, c'è violenza in Siria. Dove c'è violenza, cosa succede? Che la violenza viene utilizzata, ti prendono e ti ammazzano. In Italia passa un po' di tempo, beccano che qualcosa non è andato male, parte il contropotere che si basa sul diritto, il potere dei giudici, e incomincia a dire: ah, fermo un attimo, allora tu polizia, attenzione polizia, chi può prendere in mano, menare? No, non si fa, vieni, ti giudico. Ah, uno potrebbe dire, ma mi giudichi, adesso tiro fuori una pistola, si chiamano rivoluzioni, tiro fuori una pistola e ti ammazzo. No, non è una rivoluzione. Quello che sta accadendo con la globalizzazione è un processo che scardina, per certi versi, la concentrazione del potere negli stati. I poteri si staccano dagli stati e diventano globali. Non tutti, ma pensate solo al sistema economico o al sistema della comunicazione di internet. Non c'è possibilità, per esempio, di regolare politicamente, legislativamente la finanziarizzazione. Il regolamento giuridico della finanziarizzazione passa attraverso tutto un insieme di dispositivi che hanno alcuni riferimenti alla legislazione degli stati, ma quella è una parte minima. Il regolamento della finanziarizzazione è un regolamento interno al sistema economico globale che appunto cerca di autoregolarsi. Stessa cosa internet. Sapete com'è regolato internet? Internet è regolato da una associazione privata non profit che ha sede in California e che regola tutti i conflitti che accadono sopra l'internet globale. È in California, ma potrebbe essere anche su Marte. Ed è privata, non profit, ed è assolutamente, quindi, la costituzione, la regolazione dei conflitti dei poteri su internet avviene non attraverso i poteri dello Stato, che possono toccare, ma viene in certi casi, se questo potere esonda troppo, ma nella normalità dei casi tutta la regolazione giuridica avviene attraverso tribunali speciali di parti, di terze parti create commercialmente che si autoregolano dentro all'internet. Se no uno dovrebbe dire: qual è lo Stato che regola internet? Non ci può essere uno Stato che regola internet. Ecco il problema dell'autocostituzionalizzazione. E questo sta accadendo in tutti i poteri, quindi da un lato abbiamo poteri che non sono più soltanto il potere dello Stato, ma sono i poteri degli altri sistemi sociali. L'economia, la scienza, i mass media, pensate al potere dei mass media. Chi è che regola l'emissione di informazioni del sistema dei mass media globale? Voi sapete che il sistema dei mass media globale ha un potere enorme. Chiunque di noi potrebbe essere estratto e massacrato nel giro di 48 ore dai mass media globali, lo vediamo costantemente, no? Ogni tanto tirano fuori qualcuno, lo massacrano. Come si fa a regolare questa cosa qui a livello globale? Ci può essere uno Stato, gli Stati Uniti, ma figuriamoci, perché la Cina lascia gli Stati Uniti fare questa regolazione dei mass media? No, tant'è che in Cina non c'è neanche la libertà, e neanche in internet, tra l'altro in Cina, che la Cina è fuori dal protocollo ICANN, che è di questa regolazione globale, diciamo, occidentale. Ma non soltanto i mass media, la sanità, oggi vedremo un caso della sanità. Cosa significa quando la sanità si globalizza? Il caso che vedremo è molto interessante, è il caso, lo vediamo fra un attimo, di tutta quella pubblicità e informazione sbagliata che viene data su certi farmaci, incontrollabile, perché vedremo come le case farmaceutiche giocano in anticipo sulla pubblicazione di questi dati, sui test, sulle risultanze dei farmaci, e lì allora chi interviene quando un'enorme multinazionale come una qualsiasi multinazionale della sanità viene trovata manipolare continuamente i dati che poi sono quelli che vengono messi dentro i bugiardini che tu leggi e dici allora prendo questa. Chi? Lo Stato italiano, la Corea, la Francia? O è piuttosto il sistema globale che deve cercare di darsi una sua autoregolazione anche attraverso appunto la legislazione e i tribunali nazionali, ma chiaramente non basta quello. Allora vedete che il caso è interessante, perché il caso, ma tutto, ci sono alcuni per esempio sistemi globalizzati che non possono essere per definizione, pensate la FIFA, il calcio mondiale, ha la sua autocostituzionalizzazione, la sua autoregolazione, decide la FIFA per esempio se mettere il meccanismo elettronico per vedere se il pallone va dentro e fuori, se tu lo vuoi fare nel tuo campionato puoi fare una sperimentazione, ma non vai ai mondiali, decidono loro, e ci sono moltissimi di queste sfere che si stanno autocostituzionalizzando. Ripeto, autocostituzionalizzazione vuol dire che ci sono dei poteri in gioco che possono toccare i diritti individuali, ma dall'altra parte la speranza non è che questi poteri e l'arbitrio di questo potere venga gestito dagli stati, ma che venga gestito dagli stessi sistemi globali che per forza di cosa devono regolarsi, perché se no si cade nell'arbitrio e nella violenza più pura. Vi faccio degli altri esempi, poi entriamo in questo che è molto articolato e specifico. Pensate a quello che sta succedendo sulle fake news, no? le notizie false. Già la definizione di fake news è difficile da dare, che ormai quello che noi vediamo sono tutte opinioni di opinioni, no? Chi è che va a controllare? Tant'è che se uno volesse fare uno scherzo e si mettessero d'accordo tutti i media del mondo per 5 minuti e dire che al centro della Terra è uscito un enorme coniglio giallo che ci saluta tutti, noi per 5 minuti, sapete, no, il famoso esperimento della guerra dei mondi, no, degli anni, cos'era, quando venne fuori la trasmissione radiofonica dell'invasione, e lì per mezz'oretta tutti hanno creduto, c'era la radio. Chi è che va a controllare se stavano arrivando i marziani o no? La famosa trasmissione in Dini. Cioè, le fake news sono la stessa cosa. Chi è che controlla le fake news? Voi, se avete seguito un po' il dibattito, non c'è nessuno stato nazionale che possa regolare le fake news del sistema globale della comunicazione. L'unica alternativa è che dentro il sistema globale questi si mettono a riflettere e a dire ok, se noi lasciamo andare tutto, nessuno ci crederà più, quindi la nostra funzione sparirà, dobbiamo autoregolare. E infatti chi è che è stato chiamato a rispondere per primo a questo? Zuckerberg, Facebook, il quale tra i primi ha incominciato a pensare come faccio io a, attraverso Facebook, che è uno dei canali più potenti di trasmissione di qualsiasi tipo di cosa, come faccio io a bloccare queste cose? E ha incominciato a pensare a delle contropoteri, a dei controdispositivi di verifica delle notizie, ma interni a Facebook. E mai Zuckerberg sarebbe disposto a farsi dire queste regole dallo Stato americano, perché lui controlla quella rete lì, lui vuole sapere come fare. La stessa cosa vale per tutto, per tutti i filmati, che noi, per la nostra privacy. Chi è che può decidere della nostra privacy? Uno può dire lo Stato, ma gli stati hanno modi diversi, ci sono tradizioni giuridiche diverse, ci sono stati che sono stati diritto, stati che non sono stati diritto. Per esempio, rifaccio l'esempio, tu non puoi chiedere alla Cina di collaborare sulla libertà di pensiero, di espressione, che sono diritti fondamentali su internet, perché lei ti dice ma cosa vuoi, dentro i miei confini faccio quello che mi pare. Se non è il sistema che si autoregola, loro metteranno dei filtri, ma da lì non c'è nessuna speranza. E via dicendo. Quindi diciamo il tema è particolarmente importante e adesso vi vorrei appunto proporre questo caso, con un po' di calma perché ci sono un po' di tecnicalità, questo caso del cosiddetto publication bias, cioè della non neutralità nella pubblicazione di risultati di test medici che molte case farmaceutiche producono, cioè producono fake news rispetto ai loro medicinali. Cosa succede quando qualcuno se ne accorge? Come reagisce il diritto non solo nazionale ma globale a queste problematiche? Allora cominciamo a vedere qualcuno di questi casi nell'articolo che vi presento, che è scritto da Gunther Todd, che è uno dei più famosi teorici del diritto globale, vengono presentati tre casi. Il primo caso è il caso Edronax del 97, l'Edronax è un antidepressivo della casa farmaceutica Pfizer, una grande casa farmaceutica globale. Che cosa succede? Che questa Pfizer fa fare tutti gli studi, perché ogni medicinale, no, deve passare da tutta una serie di test prima di poter essere commercializzato, e questo controllo è un controllo, lo vedremo, che dipende prevalentemente dal sistema della sanità e della scienza, non dei giudici e del potere degli stati. Che cosa viene fuori? L'Edronax viene prodotto dal, messo sul mercato dal 97, nel 2010 il British Medical Journal, quindi attenzione, un giornale scientifico indipendente, il British Medical Journal pubblica soltanto articoli british, di inglesi, no, pubblica articoli di tutto il mondo, degli scienziati, quindi è già un media globale, questo giornale, è già un media globale, che tutti leggono in tutto il mondo, scopre? Che Pfizer aveva pubblicato regolarmente meno dei due terzi degli studi effettivamente condotti, e stranamente solo quelli che risultavano positivi. Viene beccato. Primo caso. È da più di 10 anni che c'è questo antidepressivo, il British Journal scopre attraverso controtest che questi qua hanno solo pubblicato un terzo delle ricerche scientifiche sul prodotto e solo il terzo che dava risultati positivi. Problemuccio. Qui c'è un diritto soggettivo fondamentale che è toccato, il diritto alla salute. E chi dovrebbe produrre il medicinale ha detto il falso. Chi interverrà? Primo caso, poi lo vediamo. Secondo caso, il caso BASF contro Dong. BASF è un'altra di queste enormi case che fa di tutto. Un tempo facevano le cassette, voi siete tutti più o meno della mia età, c'erano le cassette BASF, adesso fa di tutte, adesso fa anche farmaceutica, e la Dong è una ricercatrice. Cosa succede tra BASF e Dong? La BASF incaricava la scienziata Betty Dong dell'Università della California di condurre uno studio sull'efficacia del farmaco per la tiroide, il Synthroid, il più prescritto degli Stati Uniti. In cambio Dong, la ricercatrice, attenzione, doveva obbligarsi per contratto a non pubblicare risultati negativi senza l'approvazione della BASF, nel contratto. Allora, succede che per 7 anni la BASF non evita di pubblicare tutti i risultati negativi che questa ricercatrice trovava. Ne trovava dei positivi, ma ne trovava anche dei negativi. E a un certo punto però la ricercatrice non ne può più, esce la notizia, dice no, ma guardate che qui io per contratto sono obbligata, e la BASF che cosa fa? Fa causa alla Dong, perché dice no, tu devi stare zitta perché hai firmato il contratto, noi ti abbiamo dato i soldi, ma tu per contratto dovevi soltanto pubblicare quello che noi dicevamo che dovevi pubblicare. Appunto, arriviamo piano, questo è interessante. C'è l'etica dello scienziato, vedremo. Viene toccato un altro diritto fondamentale, questa volta non quello della salute, ma quello della ricerca scientifica, della verità. No? A un certo punto la Dong si ribella, dice no, basta, qui io mi pubblicano soltanto le cose positive, ma io ho un sacco di dati negativi, esce fuori sto fatto qua, e subito la BASF dice no, tu non lo devi dire, e gli fa causa. E lei naturalmente fa controcausa alla BASF ed esce il caso. Giusto, questo è interessante, non è più il caso falsa notizia, salute individuale, qui vedete le logiche diverse, globali, è falsa notizia, verità scientifica. La verità scientifica è nazionale? No, anche questa è globale. Non lo può regolare uno Stato, la verità scientifica. E tra l'altro non lo può proprio regolare lo Stato, la verità. La verità scientifica può essere solo autoregolata dentro le istituzioni scientifiche. dalla comunità scientifica, attraverso che cosa? Attraverso le metodologie che nascono per dire tu stai facendo ricerca in maniera buona o sbagliata, e attraverso, lo vedremo fra un attimo, una cosa potentissima che però può essere a sua volta comprata, altro potere, il denaro, che sono le pubblicazioni. Solitamente la scienza ormai è globale, funziona. Qual è il controllo scientifico? Attraverso le pubblicazioni. Il primo controllo è che se la pubblicazione fa schifo non te la pubblica nessuno. È un bel controllo, Infatti tutti sono, no, quelli più giovani di me soprattutto, sono lì chiusi, devono scrivere, publish or perish, o pubblichi o muori, e poi c'è la peer review, e poi lo mandano, passano un anno, due anni, e poi ti fanno riscrivere tutto, eccetera, eccetera, una specie di inferno, ma è il controllo della scientificità. Terzo caso. Questo è il caso terapia ormonale sostitutiva. Dice, accanto a molte altre case farmaceutiche che negli anni 40 reclamizzavano l'effetto preventivo della terapia ormonale sostitutiva per i disturbi della menopausa, anche la Viet, oggi Pfizer sempre, ha organizzato negli anni 90 campagne commerciali simili. Senza potersi basare sui risultati di solidi studi scientifici, la casa farmaceutica ha pubblicizzato l'effetto preventivo della terapia. Solo uno studio esterno, randomizzato, cioè casuale, nel 1998 ulteriori studi successivi hanno confutato l'effetto della terapia. Questa notizia si è divulgata e dalla documentazione commerciale che la casa produttrice ha dovuto portare in tribunale viene fuori che i contributi scientifici alla base della campagna di marketing della casa farmaceutica erano scritti in gran parte non da scienziati ma da collaborazioni con agenzie di comunicazione e ghostwriter. Cioè questi pagavano ghostwriter per tirare fuori e dire sta roba qui va da Dio. Allora, che cosa vediamo qua? Cominciamo a vedere le cose in maniera semplice. Qui vediamo alcune cose semplici. Primo punto, i problemi non sono già a questo livello, a livello statale nazionale, perché quel farmaco viene venduto in tutto il mondo. Gran parte dei farmaci che noi usiamo sono di queste grandi case farmaceutiche, le trovate in tutto il mondo, tant'è che se avete male ai denti e siete in Germania vi prendete sempre la roba della Bayer in Germania, come in Cina, come in cosa. Quindi il problema non è più già nazionale. Secondo punto, queste grandi case farmaceutiche non hanno quasi mai una proprietà nazionale, sono davvero multinazionali, anzi spesso non si sa neanche più di chi è la proprietà. È sparsa, è messa dentro degli atolli. Boh. Chi è responsabile di sta roba qua? Non si sa. Terzo punto, sono in gioco dei poteri enormi, e non solo il potere dello Stato, il manganello, ma poteri, in questo caso la falsificazione di notizie che però provoca l'acquisto di prodotti che non servono a niente. È un potere enorme questo qua. Quarto punto, cosa vediamo? Che vengono toccati i diritti fondamentali, ma non dallo Stato. Non siamo a Genova in cui tu puoi fare causa allo Stato, perché è un poliziotto che rappresenta lo Stato da manganellare. Qui devi fare causa a una multinazionale. In che tribunale vai? Cosa fai? Come ti... Contro chi fai la causa? E quinto punto, ancora più interessante, qui vediamo che c'è una collisione, è uno scontro tra logiche sociali diverse, non stati, non sistemi nazionali, ma logiche globali diverse. Da un lato c'è la logica della ricerca scientifica, che dovrebbe dire la verità, dall'altra parte c'è la logica della sanità, che dovrebbe curare. In una terza parte c'è la logica finanziaria, perché questi pagano fior di quattrini per fare le sperimentazioni e per pagare gli scienziati a fare le sperimentazioni. Quindi terzo livello, verità, sistema delle verità globale. O pubblichi o non pubblichi, se il tuo test è valido in tutto il mondo, non è valido in Italia e non in Francia. Quel test deve essere valido, è la scienza è globale. E chi non vuole stare dentro la globalità della scienza è fuori. Tant'è che quando i casi della sanità in Italia, questi che provano a fare delle cose, cosa ti dicono? Non è scientifico, ma non è che non è scientifico solo in Italia, non è scientifico in tutto il mondo. Dice, c'hai un cancro, prendi l'aspirina. No, non è scientifico. Poi dopo puoi avere dei dubbi che quel cancro ti è venuto perché invece hai preso dei medicinali, ok, infatti vediamo che ci sono gli scambi, ma la scienza è quella. Qualcuno la sostituisce con la democrazia. Sì, se vogliamo votare potremmo anche fare, hai un cancro, votiamo, sì, mettiamo i voti, sì. Perché c'è stato brutto tempo, sì. Ti è venuto un cancro. È perché ci sono tutta una serie di cose che possiamo studiare e siamo convinti che quello è perché Dio l'ha voluto, scegliamo. Sì, questo però non ha niente a che fare con quello che noi chiamiamo scienza, il che non vuol dire che la scienza sia l'unico modo di osservare il mondo, eh? Uno può dire il cancro è dovuto agli stili di vita occidentali sbagliati di cui la scienza è una parte, ok, osservalo con questo punto di vista e esci dalla scienza occidentale e provi con delle altre cose, cioè, non è questo il problema è logiche, discorsi diversi. Allora abbiamo detto la comunicazione, la scienza, che è globale, la verità che è globale, almeno quella scientifica. Poi uno se no va dal suo amico, Santone, dice mi fai adesso, io non c'ho niente contro, magari, non lo so, dice mi cuoci una gallina prima di tirarle il collo viva e vediamo che cosa succede. Se caccia tre cose vuol dire che guariscono, e caccia due no, ok, ma se uno si accontenta di quello, ho dei dubbi che funzioni, ma lo può anche fare. Finanza, i soldi sono globali, questi qui vogliono fare i soldi e i soldi hanno lo stesso odore dappertutto, non è lo Stato che può bloccare questo. Sanità, il sistema della cura, queste logiche possono essere appunto risolte attraverso cosa? E qui incominciamo a entrare dentro alla questione più tecnica. Cosa ha inventato il diritto fino ad oggi, ma non è la tesi di Teubner e non è la soluzione che dà Teubner? Qual è lo strumento tendenzialmente che il diritto utilizza dentro agli stati quando un potere che non è il potere dello Stato tocca un diritto fondamentale degli individui? Usa una procedura che si chiama, in termini tecnici, effetto orizzontale dei diritti fondamentali. Che cos'è l'effetto orizzontale dei diritti? Partiamo dall'effetto verticale. L'effetto verticale è che quando lo Stato utilizza il suo potere e va a toccare un diritto fondamentale, l'individuo, in uno Stato di diritto, può rifarsi contro lo Stato direttamente attraverso il diritto pubblico amministrativo, lì dipende da cosa è successo, e questo è l'effetto verticale, individuo contro Stato. Quelli che hanno preso le botte a Genova avranno fatto causa allo Stato. In quanti casi uno fa causa o all'amministrazione pubblica o al comune? So, io l'altro anno, per esempio, so che non ci ho pensato, sono stato abbastanza svelto. Io prendo il treno tutti i giorni da Modena, c'è un sottopassaggio per prendere il treno, pioveva, non c'erano. Si erano consumate quelle strisce che servono per non scivolare, io ero di fretta, avevo delle scarpe con la gomma sotto, sono scivolato, fortunatamente sono ancora, pur essendo ormai vecchio, sono ancora un po' di gomma, sono caduto, non mi sono rotto, però averci pensato un attimo, io potevo far causa al comune di Modena perché erano sparite le listine che devono non far scivolare, io potevo far causa, io cittadino, al comune di Modena. Non l'avrei mai detto, avrei speso un sacco di soldi, mi avrebbero detto che mi ero comportato in maniera non prudente, che avevo sbagliato scarpe, che erano cazzi miei, detto in termini un po' più semplici, però potevo farlo. Questo è l'effetto verticale. Ma cosa succede quando il potere che tocca il diritto fondamentale non è il potere dello Stato, ma è il potere di attori privati? Nel caso specifico una casa farmaceutica italiana, ce ne sono tante, nel caso specifico un erogatore di notizie italiano, Canale 5, che ti sputana in termini tecnici, che ti, come si direbbe in termini un po' meno modenesi, che ti diffama, beh, insomma, siamo lì, stessa cosa, che ti diffama, tu non puoi far causa allo Stato, devi fare causa, però ti tocca un diritto fondamentale. Allora l'effetto orizzontale vuol dire questo, che tu traduci il fare causa dall'individuo allo Stato, lo traduci dal verticale all'orizzontale, cercando di tradurre quella stessa logica uno contro il centro del potere, ma non contro lo Stato, ma contro agenzie private. Come funziona? Funziona attraverso il trasferimento in termini tecnici e attraverso delle clausole generalizzanti del diritto privato, che è come se diventasse diritto pubblico. In pratica tu fai una trasformazione, per fare causa, delle regole del diritto pubblico, no, del diritto cittadino contro lo Stato, ne fai una trasformazione che però ha un sacco di problemi attraverso le clausole generali che ti traducono quel tuo diritto individuo Stato, te lo traducono contro un soggetto privato. Solo che in questa traduzione succede un casino, perché in un certo senso vengono toccati i principi del diritto privato che non sono quelli del diritto pubblico, e quasi mai si riesce a trovare la soluzione adatta. Cioè, questo meccanismo, che è un meccanismo importantissimo, già il meccanismo dell'effetto orizzontale dei diritti fondamentali è fondamentale, perché sennò in tutti i casi in cui sono parti private a toccare un diritto fondamentale non si sapeva come agire. Allora c'è questa traduzione che funziona per certi casi, ma con la globalizzazione non funziona più, perché non hai neanche più riferimento allo Stato nazionale. Allora, in pratica il tentativo che fa questo autore è dire, è in quattro passaggi, dice: noi dobbiamo prendere questo meccanismo dell'effetto orizzontale, questa trasformazione interna agli stati nazionali, che in un certo senso traducono la logica verticale in orizzontale, la dobbiamo portare a livello globale, ma per fare questo dobbiamo fare quattro passaggi che in realtà stravolgono l'idea stessa che l'effetto orizzontale funzioni, cambiano completamente le regole del gioco, perché quella regola lì non è sufficiente. Il primo cambiamento è che l'effetto orizzontale deve toccare gli attori, chi fa causa e chi viene colpito dalla causa, non come attori privati, ma come attori collettivi con una dimensione pubblica. Una roba del genere. Il primo movimento è uscire dall'idea privato contro privato e rientrare dentro un'idea attore sociale colpito contro dimensione collettiva di quel potere. Vediamo poi fra un attimo cosa vuol dire. Seconda tesi. Non si può più, questa è ancora più interessante, non si può più far riferimento al potere dello Stato come bersaglio, ma bisogna far riferimento ai poteri dei singoli sottosistemi globali. Non devi colpire il potere come lo concepiamo noi, devi colpire il potere di fare false notizie, il potere di fare false comunicazioni, che sono poteri, ma non sono il potere dello Stato, la forza fisica, sono altre forze. Quindi una generalizzazione del potere a tutti gli altri, vengono chiamati in termini tecnici media dei sottosistemi, che sono il denaro, la sanità, la verità e tutte le altre fonti di potere che non sono il potere fisico legittimato dello Stato o che ti può mettere in galera, ma che comunque possono toccare in maniera forte la tua vita. Terzo punto. Contestualizzare i diritti fondamentali contestualizzarli dentro le diatribe e i conflitti che nascono tra individuo e sistemi globali di potere, non ci si può più fare riferimento alla peculiarità del diritto privato. Bisogna ricostruire, questo è il corrispettivo del primo punto, Se il primo punto è che tu devi dare una dimensione collettiva agli attori privati, il secondo punto è che non puoi più fare riferimento al potere dello Stato, il terzo punto è che non basta neppure fare riferimento al diritto privato nazionale, quel diritto privato deve trasformarsi in un diritto di autoregolazione dei vari sottosistemi, che va oltre il privato come lo pensiamo noi modernamente, perché va fuori dagli Stati-Nazioni. E non riguarda più soltanto, per il diritto privato riguarda storicamente la proprietà, il denaro, queste cose. Qui il diritto privato deve andare oltre, deve toccare gli altri media. Ultimo punto, che è quello dell'autocostituzionalizzazione di queste sfere globali, i diritti fondamentali, per essere, diciamo così, garantiti, devono poter fare affidamento su contropoteri globali interni a questi flussi globali di comunicazione. Non ci può essere un tribunale valido per la sanità mondiale, ci possono essere tanti tribunali, corti, che in rete, e vedremo dopo in rete con altre istituzioni, vanno a prendere quel caso e cercano di trasformarlo. La stessa cosa succede per esempio alla Corte dei diritti umani europea, lì ci abbiamo il riferimento all'Europa, ma che cos'è l'Europa? È una rete di tribunali che quando non riescono più a trovare una soluzione vanno là, e là è una terza istanza che non è nazionale, è appunto non solo interna, non è neppure solo tra gli stati, è chiaro che è tra gli stati, ma è europea davvero e può vincere rispetto alla legislazione nazionale. Noi quante volte in Italia ci hanno dato delle sanzioni perché il nostro diritto non è congruo con il diritto che viene fatto nella Corte europea. Cioè, non dico, attenzione, che qui la tesi, non c'è una tesi qua, non è che quella Corte là è meglio delle nostre, ci confliggono, e può essere benissimo che la Corte europea sbagli nell'interpretazione. Sto soltanto dicendo che alla fine la terza parte che deve decidere è una terza parte che non è più nazionale ma internazionale. Pensate a tutti i cicchetti che ci hanno dati sulle leggi per il matrimonio gay, l'Europa c'è stato per degli anni che ha continuato a dire siete l'unico, uno degli ultimi stati europei che non fa nessuna, allora potrebbe dire, vabbè, ma noi siamo sovrani, vedete che qui c'è un conflitto enorme, noi siamo sovrani a casa nostra. Dobbiamo fare noi le leggi, se noi le leggi le vogliamo fare che non riconoscono questo, lo Stato nazionale, cosa volete? E questi non dicono il vostro diritto non è legittimo, ma continuano a dire sì, però siete fuori dalla legislazione europea, sì, dovete migliorare, sì. Questo si innesca poi in processi politici interni, ci sarà qualche partito politico che prende il dibattito, dice ha ragione la Corte dei diritti dell'uomo europea e lo riporta a livello nazionale, e lì c'è un conflitto fino a che o si fa o non si fa questo adeguamento della legge italiana a quella europea. Allora, cominciamo a vedere, spero di essere abbastanza veloce, rispetto ai quattro punti, che dobbiamo toccare, anche se sono un po' tecnici, ma io vi vorrei dare, io tra l'altro non sono un giurista, quindi anche le tecnicalità le servo fino a un certo punto, ma non mi interessa. Mi interessa dare il senso di questo emergere di poteri contro poteri globali che non possono essere più gestiti a livello nazionale. Allora, il primo punto, dicevamo, la dimensione collettiva, no, di questi scontri. Nel caso che stiamo affrontando, quello del publication bias, cioè del pregiudizio alla pubblicazione, cioè che vengono pubblicati per contratto o perché ci sono delle pressioni da parte della farmaceutica a pubblicare soltanto le cose positive, non negative, si può pensare che gli scienziati facciano valere pretese individuali di difesa dalla censura di gruppi, o che invochino la nullità dei contratti che impediscono la pubblicazione, oppure che i pazienti ricorrano ad azioni di risarcimento dei danni. Dice, si potrebbe pensare, queste sono tutte azioni individuali contro un attore individuale. Ma a tutto ciò manca la dimensione collettiva istituzionale, e così i veri e propri complessi conflitti sociali non vengono risolti, perché le manipolazioni dei gruppi farmaceutici non danneggiano solo i singoli diritti di quello scienziato e di quel paziente, ma al contempo danneggiano profondamente l'integrità e dunque il modo in cui funzionano gli ambiti sociali autonomi di scienza e di sanità. Allora, il primo punto è molto interessante, dice: tu devi smetterla di guardare quel conflitto come un conflitto fra quella persona e quel gruppo farmaceutico. È evidente che è così. Si esprime così il caso, cioè non si darà mai un caso in un tribunale tra una logica comunicativa e un ambito organizzativo generale generico. Ci sarà sempre una persona o un gruppo che fa causa a qualcuno. Ma questo non è sufficiente, perché se uno osservasse la cosa così si limiterebbe a quel caso lì, ma dentro quel caso lì c'è una posta in gioco molto più collettiva, che è da un lato la necessità che il sistema scientifico dica la verità, e questo riguarda tutti gli scienziati, non solo quella poveretta che aveva firmato o quel ghostwriter che ha scritto le balle, e dall'altra parte riguarda non solo quel paziente, ma tutti i pazienti che potrebbero aver subito i danni da quel, e che non hanno voce, forza, magari non lo sanno neanche di aver subito un danno. Allora, il primo punto è: usciamo dalla rappresentazione individualistica caso per caso, anche perché, e qui secondo me c'è un'argomentazione molto interessante, anche perché moltissimi dei poteri e dei problemi che emergono sono ormai poteri impersonali. Cioè, di nuovo, quando prendete questo caso incredibile che abbiamo sotto gli occhi oggi, no? Ci abbiamo il caso Torino, 10-12 mila tifosi guardano la partita, a un certo punto nessuno capisce cosa succede, vedete soltanto dai filmati che la massa si muove e, muovendosi velocemente, cadono tutti. A un certo punto, come al solito, anche questo è interessante sul potere diffuso, un tempo sarebbe successo niente se qualcuno non avesse fatto causa al comune. Adesso cosa c'è? Il sistema della comunicazione. Arrivano nel giro di un'ora 20 filmati che ti fanno vedere tutto da vari punti di vista. Lo vedi, solo che non vedi niente, perché sono filmati presi a casaccio. Ma a un certo punto vedi, perché ci sono vari filmati, che si crea come un buco in mezzo a questa formula e c'è uno mezzo nudo che fa così e c'ha, sembra vestito da kamikaze, e all'inizio ha fatto piazza Tiananmen, all'inizio, attenzione, all'inizio tutti, la prima interpretazione è: ecco, vedete, era questo qua che ha fatto finta di essere un kamikaze, tutti sono scappati da lui e hanno creato l'ondata. Le prime 12 ore sul sistema della comunicazione. Poi incomincia a venire una seconda verità. Questo qui si riconosce, i suoi amici lo riconoscono e cominciano a dire: ma guardate che non è così. È che questo qui, se guardate bene, sta facendo calma, calma, non sta succedendo niente. Non è lui stava cercando di calmare, il problema è nato da un'altra parte. Ma nelle prime 12 ore, questo ragazzo qua, adesso non è stato fatto il nome, il cognome, eccetera, ma se fosse stato fatto nome e cognome, e quindi se fosse stato, qual è il termine giusto? Io uso diffamato. Se fosse stato diffamato e messo in croce, se fosse stato accusato di essere un pazzo esaltato, radicale, eccetera, a chi faceva causa questo qua? A chi? A tutte le televisioni, a tutti gli annunciatori, a chi? Alla televisione, ai mass media, a chi faceva causa questo? Faceva una denuncia contro i miei, che non serve assolutamente niente. Però è interessante quello che dici tu. La denuncia contro i gnocchi, il processo è spersonalizzato. Con chi te la prendi? Sulla rappresentazione di tutti i musulmani come dell'ISIS, con chi se la prendono questi? Noi ce la prendiamo con loro, ma loro con chi se la prendono? Con noi, cioè con niente. Con chi te la prendi quando aumentano del 30% i cancri ai polmoni perché respiriamo merda? Con chi te la prendi? Con te stesso perché usi la macchina? Con la fabbrica vicina a casa tua, perché effettivamente uno dice ma la fabbrica si mette in mano degli avvocati, dice no guarda che quello che noi mettiamo è solo una parte, non è quella, no, con chi te la prendi? No. Beh, lì il discorso è un po' no, lasciamo stare le casistiche caso per caso, è solo per dare una rappresentazione. Può essere sicuramente ricondotta agli organi di sanità che fanno la vigilanza della sanità. Ok, allora tu te la prendi con quelli e loro diranno, ma cosa vigilo io? Se qui tutti buttano fuori pollution, io non posso vigilare. È come l'ordine pubblico nella piazza, no? Chi doveva tenere l'ordine pubblico? Boh! Adesso ha tirato fuori i Minniti che saranno... ha tirato fuori il nuovo regolamento, a dover fare questa cosa saranno una roba un po' assurda, la polizia, un mix stranissimo. La protezione civile, volontari, adesso fanno un casino mai visto. Voi pensate, io sono modenese, noi ci stiamo tutti aspettando con gusto, perché a mio parere è proprio l'ultimo suo sbuzzo ribellistico del concerto di Vasco Rossi. No, voi pensate, 220.000 persone che arrivano a Modena, 220.000 persone che arrivano a Modena e devono essere piazzate dentro un parco dove può sinceramente succedere tutto. Migliaia di poliziotti. Ma non solo migliaia di poliziotti, ma faranno tre cerchi dove verrai controllato. Ma e lì se succede qualcosa, di chi è la colpa? No, come ne esci non ne esci, ma di chi è la colpa? Allora incominci il giochino, è colpa tua, non l'hai fatto tu. Spersonalizzazione, che è anche una tecnica per registrare. E allora dice che se tu riesci però a giocare non su quel caso specifico, perché se no se giochi su quel caso specifico che cos'hai? Una collezione infinita di casi, hai una collezione infinita di casi se rimani a questo livello, c'è una casistica, no? Come i gesuiti, no? Come fanno i gesuiti quando vogliono togliere un po' di forza alla normativa? E fanno i casi, sì però in questo caso, no in questo caso la norma deve valere, sì però non fare il furbo. Allora per uscire dalla casistica, i diritti fondamentali come istituzione collettiva significano una relazione bilaterale in cui si danno garanzie di autonomia a processi sociali contro la loro sopraffazione da parte di tendenze totalizzanti di altri processi sociali, cioè si deve generalizzare dal singolo caso allo scontro fra poteri. Poi dopo è chiaro che dentro al tribunale, che magari è una terza parte privata, questa spersonalizzazione viene ripersonalizzata, ma non sempre questo accade con facilità. Beh, facciamo un altro caso. Che dire che dispersonalizzazione non è forse giusto, ma è un processo di anonimizzazione del potere. Prendete il caso, come si chiama, quello che viene sempre fuori, di quel poveraccio che è stato menato a sangue, insomma, in ospedale, il caso Cucchi. Quello è un caso di anonimizzazione del potere, non si riesce a trovare chi l'ha picchiato, chi non l'ha picchiato, cosa è successo. Allora lì, attenzione, non è quello che viene detto qua. Lì c'è un caso molto particolare e il tentativo di non farlo, di non fare reagire, quello è un caso tra l'altro di diritti fondamentali verticali, perché lui è la sua famiglia contro lo Stato, no? Però non soltanto contro lo Stato, perché lì c'è per esempio anche i medici che stanno dicendo, non stanno dicendo, c'è anche il sistema dei mass media, perché il sistema dei mass media, c'è anche dei ministri che hanno detto delle cose, no, qui, là, cioè lì vedete che sono tanti poteri. La prima cosa è allora, invece che la tutela orizzontale dei diritti fondamentali, il problema va spostato su organizzazioni e procedure, va fatto un diritto che non tocchi più solo quel caso, ma lo generalizzi e tocchi un diritto che tocchi l'organizzazione, in questo caso per esempio l'organizzazione dei carabinieri della polizia, devi regolarla all'interno, non quel poliziotto singolo, non puoi far finta altro caso, quello che hanno ammazzato dalla camionetta, anche lì vedete un caso incredibile, nessuno capirà, ci sono varie riprese, ogni ripresa dice una cosa diversa, il sistema dei mass media, quello del che ha tirato, sì, cosa. Lì cosa succede? È anche ipocrita, spara uno. Tu non puoi risolvere quel caso dicendo è colpa del ragazzotto, che poi tra l'altro dopo trovi un sacco di piccoli giustificazioni per dire no, non voleva sparare, aveva puntato, cioè ci trovi un modo per tirarlo fuori. Lì per fare un vero ragionamento su questi poteri devi generalizzare e quindi autoregolare le forze armate, cosa possono e non possono fare, e allo stesso tempo non ridurti a quel caso singolo, ma dire in tutti i casi in cui questo succede il regolamento interno deve prevedere bla bla bla bla bla, uscire dal rapporto uno a uno. Per esempio gli americani hanno un procedimento della polizia procedurale organizzativo semplicissimo, loro l'hanno risolto, che dà qualche problema, cioè nel senso che se vogliono ti ammazzano, ma lo sapete che è un regolamento, non è che questi qui ammazzano, c'è un regolamento che dice che il poliziotto, e questa è la cosa incredibile, laddove si sente in pericolo spara ed è legittimato, e naturalmente laddove si sente in pericolo non vuol dire niente, non è interpretabile, perché uno si può sentire in pericolo sempre. Certo. Si sente in pericolo sempre, per cui tu fermi uno, già solo perché lo fermi ti senti in pericolo, l'hai fermato, se l'hai fermato vuol dire che c'è qualcosa che non va, però loro, vedete, hanno risolto, non è il caso di quel poliziotto con quel caso, con quella persona, è un regolamento interno e una procedura. Secondo problema, i medium espansivi. Allora, qui siamo molto veloci. Il problema non è più soltanto il potere dello Stato, come lo conosciamo noi, per quello ci sono i tribunali appositi, c'è il diritto pubblico, c'è il diritto amministrativo, ci sono i diritti speciali. Qui abbiamo a che fare con altri media, altri medium che non sono quello del potere politico. Qui abbiamo a che fare con però dei poteri, con dei poteri. Torniamo al caso del ragazzo. Lì la diffamazione, chi lo ripaga? Non hanno fatto il nome, vero, ma chi lo ripaga? Pensate a tutto il altro, guardate, adesso io sono già stanco perché a fare poi a parlare cercando di capire cosa dicevo, sono fatica, quindi la tiro corta, ma è pieno di casi interessanti. Prendete il bullismo. Allora, voi trovate che in una classe, no, questa cosa drammatica, viene preso di mira, tutti siamo sempre stati presi di mira, io mi ricordo che i miei genitori non mi fecero fare l'asilo perché il primo e il secondo giorno avevo trovato uno che mi menava sempre, si chiamava Paolino, me lo ricordo ancora, era un bambino piccolissimo ma aveva preso di mira, primo, secondo, terzo giorno, mi menava sempre, mantenuto a casa, basta, chiuso, ma per dire succedevano. Adesso però cosa c'è? Non solo che succede il bullismo, ma che questi riprendono e ti cacciano sopra internet e ti rovinano la vita, perché è un caso a me Paolino che mi mena, è successo niente, ma menato, ho imparato che nella vita se trovi uno che te mena o reagisci o stai a casa da casa, fai qualcosa, ma lì è che se te menano e mentre te menano ti tirano giù i calzoni e ti riprendono il culo, ti riprendono il pisello, dopo lo mettono, parlando di bambini, lo rimettono sul coso e lì chi è che ha messo? Certo, cosa fa il diritto? Prova a capire chi ha messo il video, ma non è chi ha messo il video che ha fatto il reato, è tutto il sistema del bullismo che ha creato il reato. No, ma che sia culturale è vero, ma dal punto di vista giuridico non è che ti puoi prendere quello che materialmente, il cretino che materialmente ha caricato, che probabilmente lo becchi perché vedi da dove è partita, ma non è lui il colpevole era tutti quelli lì che mentre tiravano giù i calzoni al bambino, gli davano gli sculaccioni, gli dicevano sei un gay, lo riprendevano, sono tutti colpevoli. Non puoi dire cavartela col diritto, perché fai, applicheresti il diritto in maniera ingiusta, perché quelli, che è un altro grande problema, la differenza tra diritto e giustizia, perché lì i rei sono, è quello che chiamano il gruppo, il gruppo, il branco. Se una bambina, una ragazza viene stuprata, chi è? Di chi è la colpa? Dell'ultimo che gliel'ha messo? Oh! Qual è il criterio? E se la riprendono? No, sapete che gente gente lo fa, cioè ci sono, poi il mondo è vario, alcuni si fanno riprendere e lo mettono sui siti specializzati e si divertono un sacco, si divertono. Altri se vieni messo dentro, soprattutto se non lo vuoi tu, certamente. No? Perché? Perché quella diffamazione lì poi non te la togli più. Allora è lì, per altro problema, Facebook è responsabile o no? C'è un casino mai visto, eh? Fino a due mesi fa Facebook diceva io sono un mezzo. No, fino a qualche mese fa, prima che scoppiassero, la risposta di Facebook era io sono un mezzo, non è colpa, e dal loro punto di vista dice io sono una piattaforma, cosa gli carica la gente. Poi è incominciato il conflitto, allora il signor Zuckerberg ha cominciato a dire no, aspetta, sta a vedere che qua mi beccano, mi fanno una class action che rimango in mutande io, altro che il video. E ha cominciato a dire no, ci devono essere dei controlli. E i controlli chi li fa? Facebook stesso. Come li fa sti controlli? Non lo so, non lo so. Segnalazioni eccetera, li tolgono se vengono segnalati, con tutta una serie, attenzione, anche questo è interessante, di controproblemi sulla libertà di espressione, perché è chiaro che se tu metti uno stupro dentro Facebook e si capisce che è uno stupro, che poi lì non va, ma se tu metti una tua pratica sessuale volontariamente, uno può anche dire, ma saranno poi problemi miei, mi piace farmi vedere, io voglio libertà di espressione. Beh, però la policy ci sono i minori. No, se ci sono i minori è un'altra cosa, ma mettiamo fra adulti consenzienti. Dico solo le, non sto dicendo che va bene, dico solo quanti problemi nascono. Da una parte regoli, ma dall'altra parte dici è il diritto all'informazione. È come quando devono decidere se mettere o non mettere in televisione, scusate se mi esprimo così, un video dove si vede uno che viene sgozzato, no? Allora lì ci sono diritti in conflitto, cioè il diritto alla libertà di informazione, e quindi glielo dovresti mettere, ma però c'è anche il diritto di venire informato in un certo modo, c'è il problema che se lo fai puoi fargli pubblicità, c'è il problema dell'emulazione. Vedete che mondo difficile, chi regola tutta sta roba qua? Se lo fai caso per caso non ci salti fuori. Quindi, primo passaggio, generalizzazione, non più a quel caso con quella persona, ma a organizzazioni e procedure. Secondo passaggio, il problema del potere oggi non è solo il potere classico, 8-900esco dello Stato, ma è cioè appunto della violenza legittima, come avrebbe detto Max Weber, ma è il problema di tutti gli altri poteri che possono influire sulla tua vita. Quello della comunicazione è uno dei più terrificanti. Adesso non per fare questioni politiche, ma voi sapete che ormai tutto si gioca sulla diffamazione attraverso i mezzi di comunicazione che non possono. Poi vedete che nessuno riesce mai a far causa, perché a chi fa causa? Contro i mezzi di comunicazione, che comunque loro si fanno forti del dovere di informazione, buttano fuori tutto quello che può essere per loro interessante produrre, e al limite dicono ok, ci eravamo sbagliati, perché? Perché ci hanno dato l'informazione sbagliata. Quanta gente è stata accusata di cose che no, è il classico, è il classicone, soprattutto in Italia, una settimana di paginone, prima pagina su tutti i giornali, sei un mostro, non è vero, contro Finestrini, 72esima pagina. Nel caso dei giornalisti, no, i giornalisti sono tenuti a dire le fonti, quella è una regola. Sono tenuti a dire le fonti, se le fonti non sono da... Tanto in sede giudiziaria. No, guarda, se quelle fonti però non devono essere protette, perché loro ti dicono, se dico le fonti io non posso. No. Beh. E pensate a tutte le fughe di notizie, per esempio, che ci vengono propinate, che non potrebbero essere messe fuori, ma le mettono fuori i giornali. Scusa, cosa ti dice il Fatto Quotidiano quando ti mette fuori l'intercettazione sul padre? Non voglio far politica, non frega niente, per me sono tutti bravi uguali, diciamo così. Cosa ti dice il Fatto Quotidiano? Cazzo, ma è arrivata sta cosa qua, è talmente importante che io te la pubblico. Io te la pubblico. Dice, dopo due settimane viene fuori che questo qui, cos'è che aveva fatto? Aveva letto male. Vabbè, io la notizia l'ho data, mi pareva così importante. C'è qualcuno che ha fatto causa al Fatto Quotidiano? Forse sì, ma dopo, col diritto all'informazione non c'è via. Terzo livello, quindi i poteri, attenzione. I poteri, pensate per esempio alla forza dirompente del denaro, per esempio. No? Il potere che ha il denaro di comprare le coscienze, no? Allora, non è solo più il potere dello Stato, non è più solo il potere della comunicazione. Nel caso nostro, qui erano soldi che compravano le pubblicazioni. Ma questo di solito viene fatto in maniera legale con la pubblicità. Che cos'è la pubblicità? È disinformazione pagata, no? Le vedete le pubblicità? Avete presente la pubblicità di una qualsiasi macchina, no? Dove naturalmente non c'è mai un'informazione su quella macchina, dice la cavalli, ma c'è tipo tu che vai in un posto eccezionale guidando nella libertà assoluta e dopo viene fuori una nuvola, una bella donna mezza nuda e poi dopo c'è un profumo che ti dà un senso e dice vivere liberi. E tu dici, ma di che cazzo stiamo a parlare? È una macchina. Quella stessa macchina che tu prendi la mattina che per fare 3 km a Bologna ci metti 3 mesi. La libertà, il profumo, la bella donna, quella. Hanno inventato sta roba, è lecita, è la pubblicità. Solo che non è lecito se lo fai fuori dalla pubblicità, perché lì vuol dire che tu compri, lì uno ti può dire guarda che ti sto dando un'idea della libertà se, e poi non è che ti sto costringendo a comprare la mia macchina, tu puoi anche andare a piedi. Qua qual è il caso? Che invece le case farmaceutiche ti stimolo, una stimolazione. Beh, ma la gente compra le macchine così, lei crede che compra le macchine perché una va meglio, una c'ha, no, comprano perché dice dico, Brad Pitt in quella pubblicità metteva la quarta e mentre metteva la quarta una bionda fuori serie lo accarezzava, cioè e io chi sono? Ne compro pure io quella macchina lì. Vedi mai che mentre metto la quarta compaia l'opzione lo possono fare ma tipo airbag, cioè con una bambola gonfiabile, quello magari come vabbè adesso che fanno l'auto che guida da sola nel frattempo ti daranno anche l'opzione della bambola gonfiabile, bisogna ottimizzare i tempi in quell'oretta che stai tra via Indipendenza e via Cosi, in quell'oretta lì vabbè lasciamo stare, non esondiamo. Allora, nel caso nostro compravano le pubblicazioni, però dice il nostro autore, attenzione, che non era un acquisto fuori legge, cioè non è che le case farmaceutiche ti pagano direttamente per scrivere il falso, perché se fosse così ti beccano e vai davanti al tribunale. Cosa fanno? Beh, ma fanno quello che succede all'università oggi. Secondo voi tutta sta roba, no? Ingegneri, cose, i medici, no? Li vedete tutti questi mica come noi sociologi che giriamo come dei disperati, questi cambiano la macchina, tutto. Perché? Ma mica perché sono fuori legge, perché arriva la casa farmaceutica e dice carissimo, facciamo una bella convenzione tra di noi e voi, vi diamo quei 2-3 milioni di euro a semestre per vedere la salute, eccetera. Te quando ti danno 2-3 milioni che ti tengono il dipartimento in piedi, perché sennò avresti la pezza e il culo, te cosa fai? Dici, eccezionale, ma guardi, ma sa che il suo prodotto, ma sì, e non è, non ti stanno comprando, non è che ti dicono scrivi questo, è che ci sono forme di sponsorizzazione. Avete mai visto uno che viene sponsorizzato in maniera lauta a dire mi fai schifo a quello che gli dai i soldi? No, ma non è corruzione. È un rapporto tra pari, dice io, guardi professor Prandini, lei scrive delle cose interessantissime, le diamo 1 milione di euro all'anno per fare le ricerche sul nostro sistema giuridico. Voi pensate che io scriva il primo pezzo che io faccio, il vostro sistema giuridico è illegale? No, dico, se è così comincio a pensare il caso, eccetera. Sono forme di influenza che non sono direttamente attaccate. No, non sono subliminari, perché lo sanno. Però non le puoi attaccare nel modo tradizionale. Terzo punto. Entriamo dentro a proprio il nostro caso. Come reagisce nel caso di queste pubblicazioni che comunque questo per esempio è un'altra cosa interessante. Se un giorno Siri o l'altro ti darà un'informazione sbagliata, tu con chi te la prendi? Questo è un altro grande tema, il diritto delle macchine è un tema che diventerà gigantesco, ci sono già dei casi straordinari, c'è un caso, mi avevano raccontato, di uno che aveva tirato fuori col bancomat dei soldi, ma cos'era successo? Quando era andato via aveva continuato a buttare fuori la macchinetta i suoi soldi, era passato, non li aveva presi, questo si è accorto di avere una fuoriuscita di 2000 euro invece dei 200, a chi fa causa? Alla macchinetta bancomat, quella proprio la macchina dove è andata a mettere perché ha mal funzionato, alla sua carta di credito, al sistema che gestisce i pagamenti, alla banca, provi lei a fare la causa alla banca, e la banca dice le macchinette bancomat non le faccio io, le compro dal signor Tardetari, è questa complessità. Allora, come nel caso della pubblicazione cosa succede? Allora dice, tu non puoi attaccarli in maniera così diretta, devi attaccarli, cioè ti devi proteggere in maniera indiretta. Come fai a fare in maniera indiretta? E andiamo verso diciamo la parte costruttiva del pezzo. Dice, l'unico modo è che i vari sistemi globali che sono implicati si autoregolino e creino delle terze istanze che tengono insieme queste autoregolazioni. E ci fa l'esempio. Primo tentativo di autoregolazione, cioè di autocostituzionalizzazione. La logica della reputazione scientifica. Se tu non parti dalla logica della reputazione scientifica globale, cioè se tu non riesci a far capire alle riviste internazionali che creano la rete della scienza, per esempio relativa alle scienze mediche, tutti i medical journal, medicine journal, eccetera, eccetera. Se tu lui riesci a spiegargli ragionevolmente che se loro incominciano a pubblicare robaccia, loro perderanno la reputazione, tu non sai più dove attaccarti. Devi spingere verso il sistema della scienza stessa, spiegando al sistema della scienza stessa che se perde la faccia, quella faccia non la puoi più recuperare. Allora qui si crea una prima fascia di regolazione che non è una regolazione giuridica tout court, perché non è che se tu pubblichi un cattivo articolo vai in galera, se no saremmo tutti in galera. Tendenzialmente l'università, almeno una volta nella vita andresti in galera, ti buttano fuori se scrivi un'idiozia, non ti pubblicano la cosa, e qui il controllo è soltanto tra pari, è la cosiddetta peer review, e se un pari, e succede spessissimo, si fa pagare, deve essere bloccato da degli altri pari, non si può andare direttamente dal giudice, devono essere gli altri pari, gli altri scienziati che dicono: ma sei matto, ma questa è robaccia, questa è cacca, shit, non puoi fare questo. Questo articolo non è basato su delle evidenze. La stessa cosa dei sistemi dei mass media. Se uno incomincia a dare delle notizie sbagliate, deve essere la rete dei mass media che interviene a mo' di autocostituzionalizzazione e dire no, e indicare, no, tu giornalista, tu, ma non è neanche giornalista, perché non è mai giornalista, è il gruppo di giornalisti che gli dà poi la forza di pubblicare quella informazione lì. Tu sei fuori dalla reputazione, se perdi la reputazione nessuno ti leggerà, oppure ti leggono soltanto i malati mentali che vogliono... Ci sono delle trasmissioni televisive che sappiamo tutti che sono per malati mentali, però ridiamo tutti. Vi faccio un esempio, adesso non vorrei che qualcuno mi facesse causa. Vi ricordate i telegiornali di Emilio Fede? No. Tutti sapevamo che non erano telegiornali. Non erano telegiornali. Eravamo solo quando era giovane che aveva fatto quella scoperta sulla... Sì, ma io non parlo di Fede quando era giovane. Quando lui prese in mano Rete 4 era una barzelletta, no? Quel telegiornale lì sapeva. E chi lo guardava, erano due tipi. O quelli che lo guardavano per farsi una risata. Sì. Che era uno spettacolo, ma nessuno ci credeva. O quelli che ci credevano e tutti gli altri li guardavano per dire: siete matti. Vabbè. nessun pericolo. Il pericolo solo fa la RAI. Scusi, ma lei ieri o ieri l'altro, forse ieri, il TG dell'Emilia Romagna sì. ha trasmesso, mi sembra che erano candidati da Piacenza a sindaco. Ce n'è uno che si è presentato con la fascia tricolore e la bombetta in testa, ha detto delle cose, ma che a Imola, nel manicomio di Imola, non l'avrebbero accettato perché doveva andare in un manicomio superiore, sì. da legarlo, da legarlo. Io mi domando e dico perché il PC dell'Emilia Romagna ha accettato una roba così. Quelle sono opinioni che lui liberamente, diritto fondamentale, può esprimere e essendo trasmesso ognuno può dire sei matto come dice lei. Però non viene trasmessa, non è che la RAI o il RAI 3 ha trasmesso una notizia come se questa fosse vera, ha dato l'opinione, ha fatto il dibattito. È una cosa inascoltabile, non si capiva nemmeno da Barbaletta. Ma tutto è praticamente da ascoltare. Però il problema non è questo, quelle sono le opinioni. È anche molto divertente, ma tutto sta diventando. Il problema è se c'è un'agenzia che tu, non dello Stato, un'agenzia può essere Mentana, per esempio, a cui tu dai reputazione scientifica, che ti dà una notizia completamente falsa. No? Un altro caso classico, vi ricordate, questo è un caso meraviglioso, era sempre Fede, quando fecero quelle elezioni che lui aveva messo le bandierine sull'Italia, che Berlusconi praticamente aveva vinto col 190%, però dopo lì qual è la reazione? Che lo sputano, cioè lì non c'è neanche bisogno di fargli causa, nessuno gli ha fatto causa, gli ha semplicemente detto non sei un giornalista, e con quello abbiamo risolto, e quello si capiva, è che in molti casi non si capisce. Allora, nel nostro caso qual è la soluzione, andando verso la conclusione? È una sorta di intreccio e ridicolazione a livello globale tra logiche diverse che devono autoregolarsi e regolarsi tra di loro per cercare di mettere dei confini agli abusi di potere. Nel caso in specifico questa cosa qui è nata, si chiama trial registration, registrazione di prova, trial registration. Dice, questa tutela dei diritti fondamentali, cioè la tutela a essere informati, ad avere i giusti articoli che ti dicono veramente quel medicinale, se funziona o non funziona, eccetera, eccetera, quindi il diritto alla cura, alla sanità, eccetera. La tutela dei diritti fondamentali diventa solo efficace solo attraverso la cooperazione tra le riviste specializzate globali che pongono come condizione per la pubblicazione l'iscrizione di tutti gli studi completati in questo registro. C'è un registro che viene tenuto dalle case farmaceutiche che, se vogliono essere per esempio finanziate o mettere o avere la patente per esempio in America della Drugs and Food Administration, cioè se vogliono mettere fuori quel medicinale lì, devono registrare tutte le prove fatte. Tutte queste prove fatte si crea una specie di grande deposito di trials, cioè di prove. Su questo deposito, che deve essere trasparente, tutte le riviste, gli scienziati possono intervenire. I risultati sui farmaci che devono essere distribuiti sul mercato possono essere pubblicati solo se gli studi su cui si basano sono stati prima iscritti nel registro delle sperimentazioni cliniche con tutti i risultati positivi e negativi. La registrazione sperimentale, trial qui è tradotto come sperimentale, cioè appunto delle prove, non contrasta le tecniche di potere repressivo o proibitivo dei gruppi farmaceutici, ma funge piuttosto da correttivo contro le loro tecniche seduttive di manipolazione. Cioè non è un attacco, una regolazione diretta all'abuso immediato dove tu hai il filmato di quello della casa farmaceutica che dà la mazzetta a qualcuno, perché quello è il minimo. Prima c'è tutto questo gioco di sponsorizzazioni, di contratti, di ghostwriter, che è al limite fra il giuridico e il non giuridico, perché se uno ti dice guarda io ti sponsorizzo, tu, come dire, già sei tu che ti auto... Esatto. Allora, il nostro Toebner dice non si può più fare riferimento su un tipo di procedimento che metaforicamente riprende la protezione verticale, potere statale cittadino. c'è l'effetto orizzontale, intanto non è lo Stato, perché questi sono casi farmaceutici, sono private, cittadini, lo devi far uscire dal caso particolare, lo devi generalizzare, devi tenere in considerazione processi anonimi, devi fare quindi regolare organizzazioni e procedure, e devi farlo attraverso la collaborazione, l'autogiuridificazione dei protagonisti stessi. Non puoi più fare affidamento allo Stato, a un mega Stato globale. Questa regolazione può soltanto intervenire dentro, e come se appunto questi sottosistemi si autoregolassero. L'obbligo di registrazione poggia proprio sul meccanismo della selezione dell'evoluzione scientifica. Pubblico soltanto la verità e butto via la non verità, se no mi sputtano, se no non sono più la scienza, se no non mi puoi più credere. No? Perché, e qui c'è un dibattito complicato, perché c'è tutta questa insurrezione contro chi non si vaccina? Perché chi non si vaccina non ha delle prove scientifiche che il non vaccinarsi faccia meglio che il vaccinarsi, e non ci sono neppure prove scientifiche precise che le vaccinazioni facciano del male. Sappiamo solo che chi non si vaccina, se questa non vaccinazione diventa generale, provoca problemi anche a chi si vaccina. Tutto qua è una selezione della verità, non è mai l'ultima verità, ma è la verità che la comunità riconosce. Perché mettono in galera il santone che cura appunto i tumori con l'omeopatia? Perché la comunità scientifica non lo riconosce. È giusto, non è giusto, posso vedere dei conflitti, però fondamentalmente noi ci possiamo fermare lì. Uno può sempre dire: io non credo alla scienza e non uso la scienza, io non credo alla medicina e non uso la medicina. Ma in un contesto sociale, se lo fanno in 10 è un caso, se incominciassero a farlo milioni di persone, questo diventa un problema. Le cosiddette non quotidiane. Esattamente. Quindi l'obbligo di registrazione poggia proprio sul meccanismo della selezione di evoluzione scientifica, che non fa come le azioni individuali che intervengono solo nel singolo caso, ma influenza alla lunga la coevoluzione economica della scienza, delle pratiche mediche. L'obbligo di registrazione rafforza il criterio della selezione interna della scienza, della novità, senza considerare se i risultati sono positivi o negativi, e indebolisce i criteri di selezione economici che producono il publication bias. Cioè, quindi, la logica della scienza e della sanità non attaccano punto per punto, ma tolgono ai soldi e al potere delle grandi farmaceutiche, tolgono legittimità. O stai dentro a questa rendicontazione scientifica o non puoi dire di essere una vera farmaceutica. Rafforzano al contempo i criteri delle pratiche mediche per le quali conoscere di effetti collaterali dannosi o anche di mancanza di effetti è tanto importante come essere informati sugli effetti positivi di guarigione. Quindi c'è prima un'autoregolazione della scienza, chi è dentro, chi è fuori, chi può parlare per la verità, chi non può parlare per la verità. Poi c'è un'autoregolazione delle pratiche mediche, perché i medici hanno bisogno di dare dei medicinali che funzionano, sennò la gente non crede più neppure nella medicina. Quindi c'è un'autoregolazione stessa dei medici. Perché? Perché è importante tanto quello che funziona che quello che non funziona. Un vero scienziato medico, se non funziona, è un'informazione esattamente informativa come funziona, toglie e va su un'altra strada. Finisco. La relazione costitutiva per l'autoproduzione della scienza tra ricerca e pubblicazione che le tecniche di manipolazione sostitutiva delle imprese farmaceutiche cercano di sabotare è così ristabilita. Allora, per concludere la tesi, è che io ho provato brevemente a spiegarvi, senza troppi tecnicismi, non entrando su troppi casi, di cui io tra l'altro, non essendo giurista, non sono esperto, è questa. Forse un jingle che ci dice che abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, o la pazienza, ma io mi faccio influenzare volentieri da questo messaggio. La tesi è: nel mondo globale i poteri si globalizzano. L'apparato giuridico statale non è più sufficiente a rispondere alle sfide dei conflitti, degli abusi dei poteri. I poteri non sono più soltanto quelli dello Stato, della violenza legittima, sono poteri che si moltiplicano e che hanno a che fare con tutti i sottosistemi globalizzati. Ogni sottosistema globalizzato deve autoregolarsi, perché è talmente tanto il bisogno di regolazione, perché sono talmente tanti i conflitti che emergono a livello globale, che non possiamo più fare riferimento solo agli Stati. E quindi il messaggio è: occorre creare delle reti tra sottosistemi e logiche diverse che cooperino al di là dello Stato, che sempre ci sarà, ad autoregolarsi, se no saremo dentro una specie di inferno del caso per caso dove non usciremo mai vincitori. E vi faccio un ultimo esempio, che è sempre interessante perché è talmente strano, per noi è normale, ma perché non ci pensiamo, è una stranezza incredibile. Pensate all'antidoping nello sport. Gli sportivi non possono prendere medicinali che per noi sono assolutamente banali e necessari. Se c'hai il raffreddore ti prendi un antistaminico, se c'hai male un muscolo ti prendi un antiflogistico. Questi non lo possono fare perché diventa doping. Ha a che fare questo con una logica sociale diffusa? No, vale soltanto dentro lo sport, perché dentro lo sport quello potrebbe mascherare un utilizzo di un farmaco che serve a darti una prestazione sportiva. Chi può intervenire e regolare queste cose, che tra l'altro sono particolarissime e riguardano gli sport in maniera estremamente differenziata, perché ci sono alcune cose doping nel ciclismo, alcune nel ping pong, non lo so, alcune nel... È il sistema sportivo globale stesso, non sono i tribunali dello Stato. Tant'è che, se voi ci fate caso, anche qua basterebbe un giurista, adesso mi viene soltanto il caso in generale, non in particolare come è stato risolto. In un caso di qualche anno fa italiano, c'entrava il calcio, c'è stato uno scontro fra il tribunale statale e il tribunale sportivo. Per il tribunale sportivo quello era reato, per il tribunale statale quello non era reato. Adesso non mi ricordo esattamente quale fosse il caso, era calcio, non so se era una roba... Non lo so, adesso non mi ricordo. Mi ricordo solo che c'erano proprio le due giustizie e alla fine ha vinto la giustizia sportiva, perché è stata la giustizia sportiva che ha detto: tu, giudice, fatti i cacchi tuoi nella vita normale dei cittadini, qua dentro ci sono delle altre regole, le so io. È chiaro che se un cittadino si prende la tachipirina non fa niente, ma se mi prende uno la tachipirina prima di una partita, stranamente potrebbe nascondere qualcosa. Quindi vedete come, e naturalmente queste regole interne al sistema sportivo si globalizzano, perché deve essere l'anti... Prendete le Olimpiadi, nelle Olimpiadi c'è solo uno standard di antidoping, non è che nelle Olimpiadi ci possono essere i vari standard nazionali, c'è lo standard dell'Associazione Olimpica Mondiale, che ha un nome, si chiama, non so, nel calcio mondiale c'è la FIFA dà le regole per il doping, per le cose, e ognuno di questi sottosistemi globali deve avere la sua giustizia. Ci possono essere collisioni con la giustizia degli stati, c'è di continuo. La cosa che volevo soltanto, e ho toccato del sistema sanitario perché poteva essere interessante per alcuni di voi, il messaggio, l'idea di questo pezzo è che occorre che siano gli stessi sistemi sanitario, le case farmaceutiche, i medici. Ma perché i medici dovrebbero avere vantaggio a comprare dei medicinali che non funzionano? Dice, perché ti viene a trovare il medico di territorio, come si chiama adesso, ti viene a trovare quello che dà e te ne regala, mentre ti regala i medicinali, ti regala anche, dice, ma sai, ti ho portato i nuovi medicinali, ma sai che per caso qua abbiamo una macchina, c'ho questa macchina, il nuovo modello dell'Alfa Romeo, me l'hanno data a me, però sai che te la do per 2000 euro? Quella è corruzione. Perché un medico dovrebbe essere interessato a prendere dei medicinali? Va a monte il suo mestiere, eccetera, eccetera. Il sistema della comunicazione, della pubblicazione scientifica, e se non sono questi, l'organizzazione degli ospedali, se non viene fuori lì la soluzione, non verrà mai fuori dentro ai tribunali normali dello Stato, dove questi problemi incominciano a essere fatti rimbalzare da una parte e dall'altra, passano anni e anni e non si riesce mai a trovare una soluzione. Questo potrebbe essere un tema di discussione interessante, anche un po' nuovo, perché di queste cose in Italia, del diritto globale se ne parla poco, ma per esempio quando voi... Anche i saggi... Adesso. Come? Il comparaggio è un reato. Anche i saggi non si possono più lasciare. No. Però il problema grosso è che mentre Fede lo guardavano quelli che si dividevano sopra, più gli altri fedeli a Fede, no? Su questi temi che ho detto tu alla fine, sono 8 milioni e mezzo di cittadini italiani che ci credono. Ah, certo. Che ci credono perché non hanno la base scientifica quella che Galileo, il nostro caro Galileo, aveva detto qualche anno fa. Mi manca proprio, guarda, io ho insegnato, mi è toccato di insegnare statistica nella facoltà di medicina e chirurgia, in una serie di lauree che c'erano. Sì. Quando io entravo, normalmente io avevo una buona accoglienza, no, da parte, quando insegnavo programmazione sanitaria, economia sanitaria, che era il mio mestiere. Andavo a fare quello perché c'era bisogno, non c'era nessun altro che lo doveva fare. Mi davano 4, 5, 3 addirittura come punteggio di docente. Certo. 10, 3, 4, 5 su 200 vuol dire proprio bocciato. Perché gli davo solo fastidio. A loro nota bene che poi diventano dottori. Vabbè, dottori in scienze infermieristiche, dottori in varie cose e dottori anche in medicina e chirurgia. Gli davo solo fastidio. Perché quando andavo lì a dire, guardate che con le prove scientifiche salta fuori che quello che oggi fate, non dico che non serve a niente, è un placebo, perché è proprio lì quello che ti frega. Tu non è che puoi dire che l'acqua schietta che danno con l'omeopatia non fa niente. No, fa perché ha l'effetto placebo. E l'effetto placebo ha un 20-30% di persone che stanno meglio dopo. Quindi l'altro che mi fa l'omotossicologia, attenzione, quello che mi fa l'omotossicologia dichiara lui ai giornali che lui prescrive per 300 euro al mese a bambini con autismo che fanno 3.600 euro all'anno, moltiplicato per 3.000 fanno quasi 10 milioni di euro. Quindi la ditta una di Milano, questo qui gli procura 10 milioni di introiti. Cioè, scusi, grazie. Prego. Molto interessante. Andate già via, andate voi. Già quando sarà. Andate a fare shopping, posso andare anch'io? No, no, non andiamo. Allora, scusa, questo no, no, no. Cioè, c'è un sistema. Allora, è anche vero che per fortuna quando uno scrive su una rivista scientifica seria devi indicare conflitti di interesse. Dicendo no, se lo fa, no, no, lo deve fare, perché se non lo fa si becca la fragata. Se lo becca. Allora, è vero che tutti quelli che lavorano in un certo campo devono avere a che fare con le ditte che gli procurano il lavoro, che gli danno i soldini per fare le ricerche, però sapere già che quello lì ha dei conflitti di interesse perché ha preso i soldini dalla pirimpirina o dalla, diciamo, questo già ti condiziona, cioè dici, ma il guaio è che le persone che leggono e che vedono e che ascoltano oggi, gli mancano proprio le basi. No, questo è interessante perché gli manca le basi, cioè, è chiaro che qui sono... Io mi sento di sentire la cosa, facendo su un tempo, sì. E dico che invece si percepisce moltissimo l'importanza, capite? Perché se no non si fa nessuna... L'importanza di cosa? Cioè di avere una metodologia, ma io spero che per i medici di avere delle condizioni statistiche, perché altrimenti no, ma non litigate per voi, facciamo dei casi, non litigare, voglio dire che non so, forse stanno anche cambiando le cose, stanno organizzando corsi, forse parliamo di... Però a me interessa il caso difficile del, perché è chiaro, dunque qui c'è un limite anche della comunicazione rispetto alle coscienze, no? È chiaro che a un certo punto uno può nella sua coscienza, che è, voi sapete che la nostra coscienza è una specie di universo sconosciuto, nessuno sa, basta che lo si chieda per 3 minuti chi sono io, dopo dice boh, non lo so, cioè è una cosa un po' incasinata. Ma ci sono delle coscienze, uno può credere veramente che la sua salute dipenda se dal giorno prima un cane è passato e ha pisciato, cioè qui, e non c'è niente da fare, a un certo, allora uno può anche dire io non credo nella medicina e quindi io non mi vaccino, fino a che questo non influisce sul quello che i giuristi chiamano l'ordine pubblico, uno può ammazzarsi da solo, dice io credo che se tutte le mattine bevo del petrolio starò meglio, dopo facciamo 12 ore, questo qui ha risolto il problema e non succede niente, lo trovano, dicono era un deficiente, si è suicidato. Qua quando questo diventa un problema pubblico, è il tuo diritto. È il mio diritto, esatto. Ma infatti, no, però funziona, perché se tu... Se mi voglio suicidare, sono consapevole. Sì, ma perché tu non tocchi nessun altro. Quando questo incomincia a toccare gli altri, cioè questo comincia a diventare un problema quando comincia a esserci una setta che pensa che bere il petrolio tutte le mattine fa bene e incomincia a fare proseliti. In questo caso il petrolio non è un buon esempio, perché di solito i proseliti li fanno quelli che c'hanno sempre, però c'è sempre, perché poi attenzione, anche la medicina non è una scienza to cure, è una specie di arte, scienza, sapere, no? Nel senso che è molto difficile. Incomincia a diventare un problema quando questi si attaccano alla speranza, che è una roba molto importante per noi esseri umani, dire non ha funzionato niente, però c'è questa cura, no? Funziona sempre così, oppure io non mi faccio questa cosa e spero di stare meglio, perché poi lì ti attacchi lì quando c'è la vita e la morte. Allora lì è lì che si inserisce questo dibattito, non sulla persona singola. La persona singola da sempre fa quello che gli pare. Allora, questi qui che per esempio, andiamo proprio sul dibattito, so che ne avete parlato con Cipolla, o meglio, ne ha parlato lui, non va fatto parlare, credo. Allora, c'è un gruppo di persone che non si vogliono vaccinare, guardate che non succede niente, fino a che incomincia a propagarsi il morbillo. Quando incomincia a propagarsi il morbillo e il contatto dei bambini di quelli che non si vogliono far vaccinare con i bambini o gli adulti di quelli che si fanno vaccinare incomincia a diventare problema, sorge un conflitto. E se sorge un conflitto bisogna avere una soluzione. È a quel punto che incomincia il problema. Allora cosa dovrai fare? In quel caso c'è poco da fare. In quel caso cosa stanno facendo? Stanno obbligando. E molti di questi faranno obiezioni di coscienza. Sì. Faranno obiezioni, diranno benissimo, se tu non mi scrivi, guardate che interessante, se tu non mi scrivi mio figlio tu ledi il mio diritto, questo è evidente, perché tu ledi il mio diritto se non fai andare a scuola il bambino, e l'altro ti dice ma tu ledi il diritto alla salute degli altri e vanno davanti a un tribunale, quale non lo so. Quindi questo caso, però questo è un caso che non ha a che fare con quello che abbiamo visto qua. Questo è un caso di veramente difficile soluzione, perché è un muro contro muro, e tu questi gli potrai dare anche tonnellate di scienza, ma non gliene frega niente. Perché? Perché loro hanno bisogno di una cosa che non hanno lasciato. Questo è veramente interessante, perché questo articolo questo problema non lo tocca. Quando tu della scienza non te ne frega niente, ma stai facendo riferimento a un'altra logica, in questo ragione Toibner, sono logiche in conflitto, in questo caso la logica in conflitto è fra un pensiero scientifico con tutti i problemi che ha, perché sappiamo che il pensiero scientifico ne ha dei problemi, e un pensiero non scientifico. Quando lo scontro è fra questo, come fai? Posso fare una domanda? Prego, no, mi dia una risposta. Faccio abbiamo due. Come? In questo caso sul territorio nazionale interviene lo Stato. Sul territorio è obbligo per comune. Obbliga per la cosa. Fino a che questi qui non si incateneranno da qualche parte, diranno noi non ci parliamo. E allora cosa? Li mettono in. E d'accordo, però qui siamo dentro, non era il mio caso, qui è dentro lo Stato e le cose funzionano. Esiste un'altra soluzione. È Stato contro cittadini. Sì. Esiste un'altra soluzione. Se per caso vai all'ospedale e devi essere curato per quello che tu non hai fatto, tu paghi di persona. Questa qui è un'altra logica, ma un po' all'americana. No, sì, è una logica, diciamo. Punitiva, no? Tipica di chi fuma, no? Dice tu fumi tutta la vita, ti hai preso l'infarto, ciao, l'assicurazione diciamo dello Stato, se sei negli Stati Uniti, non ti copre, la tua privata non ti copre. Ma se io mi sono ammalata per causa, ma che mi paga? Però l'altro ti può dire, ma io mi hai preso l'infarto non perché fumavo, ma perché, e come lo dimostri? Allora lì... Scusa, però. Uno, due. Io comunque non fumo. Prego. Due solo. Allora, vorrei fare una considerazione. Da quello che mi sembra, sembra a me, no? Diamo per acquisito che lo Stato non ce l'ha. Sembra quasi un dato ormai certo, no? E quasi sì, non ce la fa da solo, cioè se ogni attore non si responsabilizza, lo Stato è sempre, e poi bisognerebbe dare il contatto che lo Stato lo sappia fare, abbia le risorse per farlo e la capacità di farlo. Tutte cose che io non posso dire. Però la considerazione, se no non riesco a. Allora, dato per acquisito questo, sembra c'è la pace, non c'è la pace, ha bisogno di aiuto, eccetera, eccetera. Però io dico questo, lo Stato comunque ha un dovere, che è quello che è, non si può eliminare, che è la responsabilità di quello che lui enuncia nella Costituzione. Ok? E lei ha il dovere di controllo. Quali mezzi poi lo Stato deve attuare e aggiornare il suo modo di comportarsi, il suo modo di operare nella modificazione che esiste data dalla globalizzazione è un altro problema. Allora qui l'autocostituzionalizzazione degli interessi o dei diritti, chiamiamoli così, può essere delle logiche, può essere un modo che lo Stato utilizza per poter poi comunque assicurare il dovere di intervenire, il dovere del controllo. Faccio un esempio. Esiste in Italia, si parlava di farmaci, sì, l'AIFA, che è l'Associazione, sì, Italiana Farmaci. Okay. Come opera... Che è autonoma, quindi, un'associazione. Che no, è statale. No, è statale, questo è statale. Pensavo che si fosse un'agenzia. La correggo, è un'agenzia. È un'agenzia, quindi è un potere derivato. Non è una indipendente. Allora, l'agenzia dei farmaco si comporta, deve comportarsi in un certo modo. I farmaci, teoricamente, non possono essere venduti in Italia se non sono passati al controllo. Teoricamente, però, questi tre casi erano proprio casi in cui non era... In cui come lei opera per arrivare a fare queste cose? Sì, no, è tutto da verificare. Sarà probabilmente da modificare anche attraverso quei meccanismi di autocostituzionalizzazione. Ma attenzione, il ragionamento non era togliamo lo Stato, era dentro la globalizzazione e a questi flussi che sono veramente globali, anche di difficile individuazione degli attori responsabili, lo Stato non è più l'unico che lo può fare. Ripeto, il caso di internet è chiaro, tu non puoi avere una legge italiana contro, cioè quello è globale. Quando la CIA chiede i dati dei telefonini alla Apple, la Apple gli risponde così, gli dice ciao, io non te li do, e non c'è nessuno Stato che gli, a meno che per forza maggiore non gli vadano a prendere, perché sennò scoppia la guerra, gli va. Il mio ragionamento, cioè il ragionamento di Toynbee, ma non sono io, è non è più sufficiente solo questo. Per esempio, nel caso, se vi interessa la sanità, la parte costruttiva è: se voi non riuscite come cittadini, utenti, pazienti a responsabilizzare i medici, gli scienziati che fanno le prove, è molto difficile che i diritti fondamentali alla sanità, alla cura, possano essere garantiti, perché dopo diventa la tipica guerra guardie e ladri. I ladri cercano di farla sempre fa e lo Stato dovrebbe rincorrerli. È l'autoresponsabilizzazione, e il ragionamento è che se non lo fanno perdono la faccia e perdono denaro anche, diciamo così, che gli converrebbe anche fare loro l'autoregolazione. Però questo ragionamento è ancora difficile da svolgere, perché noi siamo ancora molto statalisti e abbiamo ancora veramente questa idea che lo Stato ci protegga, mentre spesso non ci riesce più a proteggere. Tutto qua. Scusami però, ma cosa serve lo Stato se no? Io mi domando. Questo ce lo domandiamo tutti, ma per quello me lo domando. Di capire cosa serve. E noi, come cittadini, che poi è il tema della nostra scuola, capiamo che c'è bisogno di fare qualcosa di più. Allora, il discorso dell'autocostituzionalizzazione, sì, che lei ha portato oggi, che è molto interessante, può essere, allora, come noi cittadini, portatori di diritti, portatori di esigenze che hanno bisogno di una risposta, possiamo noi, ci sono dei tentativi, autocostituzionalizzarci, certo, e diventare attori che entrano direttamente nella logica, nel meccanismo del nuovo, chiamiamolo così, Stato, in modo tale da poter fornire insieme a tutte le altre autocostituzionalizzazioni i riferimenti allo Stato per operare sempre lui comunque, perché il riferimento dello Stato è indispensabile. Ma se no, che tipo di responsabilità c'è se non in giro? Se è tutto così diffuso, c'è tutto così no, ma questo però è proprio un problema, cioè questo è il problema. Ma entriamo in questa logica anche noi. Non è che possiamo risolvere il problema tutti. Una volta c'erano i partiti che si attraverso cui i cittadini si auto ordine nelle domande. Adesso no. Scusa, ma adesso c'è la rete, ma lei capisce che la rete adesso, per esempio, quando che è anche interessante, quando il Movimento 5 Stelle dice io ho deciso questo, chi cosa, perché ha deciso cosa, cioè ci sono alcuni che hanno cliccato dentro una piattaforma, no, ma per dire che questo rende diversa la nostra, se hai scritto ti butta fuori, rende difficile. Beh, però vale per loro, poi quello mandano al Parlamento della gente, scelgono un sindaco, no? È una democrazia che è diversa, è davvero delle regole diverse, ma tornando al Signore, secondo me, diciamo, la logica vecchia che funziona ancora solo va espansa, no? Va potenziata. Per esempio dei cittadini, dei pazienti che si mettono insieme in associazione e fanno controllo, questo è assolutamente, solo che non va più fatto contro l'ospedale di Bologna, ma va questo controllo fatto a dei livelli molto più alti. Per esempio, se tu vai se vuoi controllare i medicinali della come si chiama questa qui di Bologna, della Alfa Wasserman, devi farlo, dove lo fai? Lo fai qui a Bologna, lo fai nella loro sede americana, lo fai dove lo fai? E se vuoi cioè è semplicemente che la globalizzazione, questo è un tentativo solo per dire, quando il potere si globalizza, anche il controllo del potere si deve globalizzare. Questo è interessante. Poi dopo c'è pieno di buchi, come tutto, come tutta la realtà è piena di buchi. Però non è più soltanto, non è più sufficiente il tribunale dello Stato, per mille motivi. Ci posso, per esempio, altro esempio, voi sapete che il 95% delle transazioni commerciali viene regolato da tribunali terze istanze private che le aziende si pagano in giro per il mondo e che sono il loro sistema dei tribunali, delle corti, perché non possono andare davanti allo Stato, si sono creati il loro sistema giudiziario, perché sennò ce n'è troppo di conflitto. Non è dopo, e poi dove fai causa? Allo Stato che, dove è successo? Allo Stato di quello che invece fa? Cioè è semplicemente un argomento di generalizzazione del controllo, non che lo Stato. Il vero problema, e rispondo in termini semplici, non è possibile, sembra, non c'è, e sembra che non sia possibile in termini teorici e pratici, lo Stato globale. Lo Stato globale, la statalizzazione del governo del mondo, non è possibile. Per adesso le soluzioni che si trovano sono la WTO è una costituzionalizzazione del mercato. Prendete prendete, qui però bisognerebbe entrare nello specifico e studiare bene il meccanismo, non abbiamo tempo e non sono neanche la persona adatta, ci vuole più il giurista. Prendete questa cosa straordinaria dei protocolli per l'ambiente. Questi non sono soltanto stati. Qui c'è dentro di tutto, associazioni, cittadini, terze istanze, ONG, c'è di tutto che firmano questi protocolli. Poi i protocolli vengono firmati dagli stati, come una perché noi ci abbiamo ancora gli stati, ma il processo è globale. Tant'è che se esce Trump, vabbè, stanno dentro gli altri, cioè non è che crolla tutto perché esce gli Stati Uniti. Gli altri reggono, vedremo, certo, il vero problema è che nessuno ha la forza di fare una sanzione agli Stati Uniti, tutto qua. Se fossimo usciti noi ci sanzionavano, ci dicevano benissimo, non siete dentro il protocollo, allora noi non vi compriamo più le borsette. Finita. E invece con gli Stati Uniti non ha... Allora questo ragionamento è un ragionamento per generalizzare le forme di costituzionalizzazione statale, ripeto, la Costituzione è il diritto che blocca o regola il potere che può diventare arbitrario, perché il potere ha sempre la tendenza a diventare arbitrario e quindi deve essere regolato, o almeno noi conosciamo lo Stato di diritto come questa cosa qua, è il diritto che regola lo Stato e lo Stato che dà potere di diritto al diritto, perché poi lo scambio duplice va portato non più a livello nazionale ma a livello internazionale, poi a livello globale, che sono due passaggi successivi. E questo per me è interessante, per esempio anche per tutte le forme di associazione di pazienti, utenti, medici, che devono diventare appunto internazionali e globali per poter poi attaccare, far venire fuori caso. È solo un esempio, non vuole essere definitivo, è una cosa in più che ho portato qui alla discussione. No, io volevo dire, su discorso globale interessante. Sì. Volevo dire questo. Cioè, noi abbiamo però messo insieme forse un po' arbitrariamente i livelli. Il livello statale, che continua a essere comunque fortemente improntato al diritto e certo. Alla Costituzione. Per esempio il discorso della sanità si dice che è in Costituzione. Il diritto alla salute è un diritto soggettivo perfetto, ma anche in un interesse della collettività. Quindi ci sono due certo. Interessi che vanno, come si dice, inglobati e fatti. Naturalmente poi c'è il tema della legittimità del potere, e quello è un tema che non lo puoi dare per scontato. Infatti c'è un famoso, che io amo, un famoso filosofo Gramsci, che si crea il concetto dell'egemonia appunto per dare un'impronta culturale, soprastrutturale, al discorso della legittimità del potere, della sua magari, lo vedere in forma di lungimiranza culturale e via dicendo, però non di avanguardismo, ma di potere del popolo, però c'è è sempre latente il discorso della legittimità, perché non è scritto la Costituzione, poi la Costituzione la deve, per esempio qui lo citava Anau, il professor Anau, c'era il discorso della scientificità, è un discorso che sta vacillando in questo paese in maniera drammatica. Basta vedere le iscrizioni agli istituti, vengono considerati gli istituti tecnici, vengono considerati spazzatura, tutti si iscrivono al liceo, perché appunto questo è un paese che sta perdendo questa prevenzione. Poi vedi, clamorosamente, c'era un medico, parlava di classe medica, però la classe medica ce n'è, per me era data sua, un discorso della scientificità, perché tutti quelli che parlano di omeopatia parlano di una disciplina che è, non dico un conflitto, ma è altra cosa rispetto alla scienza. E questo qui, come questi sono questi di base. Il livello prettamente invece interessante, che apre molto su questa discussione, è il livello internazionale. Il livello internazionale appunto non ha un governo, non ha proprio globale, perché internazionale sembra ancora tra stati, che c'è un diritto internazionale, ma qui sono proprio processi. No, ma è interessante, no, perché no. La letteratura gioca un sacco, no? C'è ho un sbagliato clamorosamente a usare quel termine, cioè il globale, il discorso del globale. Però io per esempio ho letto con interesse una volta un articolo che riguardava adesso una multinazionale spagnola che c'è a capolone dell'abbigliamento, ma lo faranno. Sì. A Zara, che per esempio usa produrre i suoi manufatti nel Sud America o in Cina, e siccome anche quei paesi stanno cominciando a creare i loro sistemi di protezione sociale, sì, quindi ammortamenti sociali, poi pensioni, che dicendo, siccome quelle incidono sulla redditività a loro, cosa fa, sulla produttività redditività loro, cosa fanno? Prendono gli operai e li portano a lavorare in acqua internazionale. Certo. Io ti faccio questa domanda perché alla fine secondo me un discorso giuridico può sempre chiudere o perlomeno arginare un fenomeno sociale. Se il diritto alla navigazione, anziché un diritto neutrale come è stato inteso in termini ottocenteschi e novecenteschi, anziché limitarsi a quello, agli aspetti prettamente della visione della navigazione, cominciasse a inglobare i diritti che sono regolati nazionalmente, non tanto per dire ci vuole tot, cioè il diritto al lavoro deve essere tornato così, però rimandare alle legislazioni sì, nazionali sì. Di provenienza già sarebbe un argine di un certo tipo. Non so se esistono nel consenso più debole a livello globale e internazionale a questo punto, come l'ONU, discussioni di questo tipo. Perché sono discussioni che in un certo senso possono aprire a quel discorso delle... La cosa dei diritti, perché il diritto è sempre... Questo ti rispondo non da giurista, perché sono un giurista, quindi... Ti rispondo in un altro modo, il diritto è sempre collegato alla territorializzazione, cioè a confini. Il mare è esattamente una cosa interessante, no? Proprio il diritto del mare, diritto che tra l'altro è un diritto speciale, no? Perché dentro ci sono regole del tutto speciali, assurde per noi. Internazionale. Questo è un buon caso di applicazione, e tra l'altro, a parte il fatto che il diritto alla navigazione oggi ci ricorda un'altra navigazione, che è la stessa fluidità che non riesce a beccare la navigazione su internet. Pensa ai diritti, per esempio, dei rifugiati, dei migranti nel mare. Questo è un buon caso di applicazione proprio per la fluidità del mare stesso, che non ha confini precisi e che probabilmente è uno spazio particolare che non è stato così preso in considerazione, cioè che ha bisogno di un'elaborazione di diritto particolare. Ma la stessa cosa i cieli, i diritti del passaggio dei cieli, una cosa. Voi sapete che il cielo è pieno di diritti, no? Quando voi per esempio prendete l'aereo e passate sulla Siria, sui territori di guerra, c'è un diritto che dice che se lì passate non vi devono sparare, e se vi sparano succede qualcosa, perché sennò nessuno girerebbe più, no? Quindi ci sono zone, questo è già interessante, cioè, la terra è stata quella più diciamo toccata dal diritto, e cielo e mare hanno diritti speciali che sono globali, perché sono più fluidi. No, ci sono gli spazi aerei, ci sono gli spazi marittimi, i confini, però i processi però sono diversi. Questo è un altro caso, bisognerebbe chiamare un giurista specifico su questo. Però i mari e le navigazioni che mi interessano di più sono per esempio su internet. Internet non ha confini, questo è il vero problema. Internet non ha confini. Se tu mandi un'email qui e lo mandi dove vai, in un secondo arriva. Se ti mandano un video porno dove ci sei tu, che per caso ti hanno ripreso porno, l'hanno ripreso che montavi una capra, perché è il tuo diritto soggettivo, e te lo mettono in circolo, non c'è confine. Questo è interessante. Sapete quanti in Inghilterra lassù nelle lande isolate non sanno cosa fare? Bene, abbiamo concluso. No, pensavo con questo bel esempio rupe rurale. Sì. Eccetera. E andarmi con gli editori della Emilia Romagna, la terapia del dolore di Modena, sì. No, di Parma. E il suo direttore, che sì. È quello che aveva importato in Italia la terapia del dolore e anche consulente al Ministero della Sanità, ecco, che è stato agli arresti domiciliari per aver creato delle sperimentazioni senti il consenso delle persone, sì, che andavano, sì, lì, e soprattutto anche sperimentazioni fatte a tavolino più che fatte poi sugli apparati falsi. Ecco, allora, di questa cosa che se ne parla ben poco e che anche influenza anche la terapia del dolore di Bologna, perché qui c'è un figlio di... allora, come si può difendere eventualmente? Si può difendere quello che va a farsi curare la terapia del dolore, che moltissime sono in fase terminale di tumori. E se è falsa, ci si può solo difendere mettendo in giro sempre di più l'informazione che è una cosa che non funziona, che è falsa e che deve essere delegittimata dal punto di vista scientifico e sostituita. No, la terapia del dolore, che è in quasi tutti i paesi più... Sì, però è più difficile. In Germania è così, In Germania un dipendente pubblico che si comporta contro lo Stato perde il posto di lavoro e prende anche la pensione. Da noi gli danno il buono uscito, diverso, un sistema diverso. Va bene, grazie, direi che io sono cotto, quindi... Poi, Teubner, trovate un sacco di roba, Teubner Gunther, trovi anche un sacco di traduzioni in italiano, Teubner, Gunther, Gunther, metti dentro, trovi un sacco di roba, e trovi anche, ci sono 3-4 libri tradotti in italiano con vari saggi, sì. No, molto interessante, lo trovi su diversi canali, non solo su una. Grazie della pazienza. Grazie della pazienza. Grazie della pazienza. Grazie della pazienza. Grazie.